Potremmo dire che dentro ogni personalità, vogliamo andare a vedere. Marco, scusa, si forma perché il bambino non ha una parte adulta per cui potrebbe riconoscerle? Certo. Perché se avesse una parte adulta. Il bambino per definizione ha una visione molto ristretta, no? E quindi quando riceve il male non ha una gran capacità di elaborazione. E qui diventa l'unica chance che ha. L'unica scelta che ha, non è altra, quella di contrapporsi. In corrente energetica questo si chiama sé inferiore, in altri modi si chiama. È il nucleo, che poi è il nucleo dell'ego. Ok. Allora, riceve il male e impara a produrre il male. Però qui riflettere pensando a una legge ben nota in informatica, che è questa. Garbage in, garbage out. Allora, chi riceve il tradimento, cosa tirerà fuori? Tradimento. Chi riceve rifiuto? Rifiuto. Chi riceve umiliazione? Umiliazione. E così via. Questo entra, questo esce. Ovviamente tutti sappiamo che le cose non sono così semplici, perché far uscire in modo diretto tradimento, umiliazione, rifiuto, abbandono non è molto accettato socialmente. Conseguentemente queste forme verranno nascoste. Ci saranno lo stesso, ma verranno nascoste da una maschera. Allora, per sapere cosa veramente immettiamo nella vita, nostra vita, quali sono le forze che facciamo uscire da noi, dobbiamo chiederci quali sono le forze che sono entrate. Quando le persone vanno in terapia sono bravissime nel raccontare tutto quello che è entrato dentro di loro di negativo, e le persone raggiungono livelli di eccellenza. Quando poi si chiede, ma tu come hai restituito al mondo in forma amplificata quello che hai ricevuto, lì si cominciano ad essere dei problemi. Lì iniziano le cosiddette resistenze, che sono ovvie, perché ammettere di aver restituito il male di solito amplificato non fa piacere a nessuno. No, forse non perché c'è il desiderio di essere buoni, che gli esseri umani sembra piuttosto attenuato, ma perché si ha paura del rifiuto. Cioè, se io dico io sono una persona che rifiuta e che tradisce gli altri, non è che questo poi mi porta dei vantaggi sociali, ecco, di solito sono mal visto. Quindi tutto questo viene coperto, ed è quello che noi conosciamo ormai molto bene, viene coperto da quel fenomeno che chiamiamo racket, cioè della manipolazione degli altri. Quindi noi manifestiamo queste forze trasformate in modo tale che non siano riconosciute. In questo modo possiamo produrre, continuare a riprodurle senza che gli altri siano in grado di confrontarle. E poi c'è da dire che, siccome più o meno le praticano tutti, c'è un gentleman agreement che io non confronto le tue, tu non confronti le mie, e mafioso te, mafioso io, e siamo. Questo impedisce ogni cammino da spirituale, cioè blocca l'origine, cioè, ecco, questo quindi è da dire con chiarezza, perché spesso anche persone che si avviano a percorsi di preghiera, di meditazione, se non osservano, non sanno osservare dentro se stessi queste forze, si trovano con il cielo è bloccato da una rete, non puoi passare, perché tu puoi fare tutte le pratiche che vuoi, ma se continui nel mondo a riprodurre queste forze negative, l'evoluzione non ci può essere. Vorrei specificare bene, la maschera non copre solo queste forze nei confronti degli altri, cioè io so di essere un traditore, so di essere, e poi ci metto la maschera e faccio, no, le copre anche nei miei confronti. Io stesso sono convinto di non tradire, di non abbandonare, di non... Queste sono forme appunto di copertura che servono a proteggermi dalla paura, perché se sapessi che sono un traditore, uno che abbandona, che rifiuta, mi aspetterei poi che gli altri mi restituiscano con gli interessi quello che faccio. Siccome non lo so, lo pratico lo stesso, e siccome gli altri lo praticano uguale, tutto va avanti così. Ma questo modo di andare avanti, come ripeto prima, impedisce l'accesso alla felicità, alla gioia, all'essere veramente persone che si realizzano, cioè a dei liberati. Allora, finché siamo dentro qui, siamo dentro la prigione. Molti lavori che si facciamo su noi stessi sono semplicemente spostamenti da una stanza all'altra, da una cella all'altra della prigione. Ecco, quello che i grandi maestri ci insegnano è dire: il compito non è spostarsi da una cella all'altra. Il compito umano è uscire dalla prigione. Ma per uscire dalla prigione, guardate, ci vuole qualcosa che ben poche persone sono disposte a fare oggi, che è sviluppare questa cosa, la consapevolezza.